piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Nonna Peppina sfrattata andrà a vivere in un container. La figlia, un'offesa all'intera umanità. Un imprenditore lombardo. Compro io una casa a nonna Peppina. Farò l'impossibile per esaudire il suo desiderio. Nonna Peppina che lascia la sua casetta in legno antisismica è l'emblema dell'Italia che non funziona. Vergogna social. Insulti a nonna Peppina. Decine di chef insieme per nonna Peppina. Un grande evento organizzato in favore dell'anziana sfrattata che ha commosso l'Italia. Caso Peppina. Paolo Liguori. Una storia vergognosa. Lo Stato è forte con i deboli. Vittorio Sgarbi. Nonna Peppina sfrattata. I profughi accolti. Matteo Salvini da Peppina. Casetta da demolire? Dovranno passare sui nostri corpi. Dovranno passare sui nostri corpi. Infatti c'è una fila di personaggi della politica, dello spettacolo, della comunicazione, del pensiero, tutti stesi lì di fronte la casetta di legno di nonna Peppina a San Martino di Fiastra, zona terremotata, dove al centro di un giardinetto c'è una casetta di legno che è diventata il simbolo dell'oppressione in Italia. Questa mattina parleremo del nonna peppinismo. Il nonna peppinismo non crediate che sia banalmente una facezia come le tante che sentite a questo microfono. No, è un movimento d'opinione, è un movimento di base, è un movimento che rappresenta la gente. Attorno alla figura di nonna Peppina si sta creando veramente una sorta di desiderio di riscossa degli italiani. Quanto vi sentite nonna peppinisti? Quanto voi anche incarnate quelli sono i valori rappresentati da questa signora impavida, integerrima, sta sfidando la tormenta, sta sfidando i lupi, sta sfidando il maltempo, sta sfidando le ruspe, sta sfidando la mano distruttrice della burocrazia cattiva, sta sfidando il principio che comunque possa esistere un abuso edilizio laddove ci sia una povera signora anziana di 95 anni, al freddo e al gelo, che ha diritto di avere una casetta di legno. Questa mattina io do già per scontato che esista il nonna peppinismo, che già sia fortemente radicato nella coscienza degli italiani, però vorrei in qualche maniera fare estendere con voi la carta dei valori del nonna peppinismo. Dato per scontato che da qui a poco nonna Peppina sarà il personaggio più evidente, più solarmente rappresentativo di fronte a tutte le ormai le figure fosche, adombrate, la nostra politica, le nostre istituzioni. Tutti vorranno nonna Peppina. Nonna Peppina sarà portata sugli scudi dalla gente. Nonna Peppina salirà sugli altari. Me ne abbiamo già una prova tangibile. 800 24 00 24. Aiutatemi, scusate la voce rotta dalla commozione, che poi in realtà è gastrite, a stendere la carta dei valori del nonna peppinismo. Inizio io. Ciao Peppina, come ti senti? Come stai? Male. Male. Perché mi hanno sfrattato dalla mia casetta di legno dove vado mo io. Amore. Che la casa è inagibile. La casetta nel bosco per te. E tu sei andata a vivere da là, giusto? E tu sei felice dentro questa casetta nel bosco? Sì, dai, sto bene lì. E non mi muovo, neanche se mi mettono le manette. Non mi muovo. Inizio io a stendere quella che è la carta dei valori del nonna peppinismo. Nonna Peppina ha una casetta di legno nel bosco. Nonna Peppina rispetta l'ambiente, ha una casetta di legno, è un materiale biodegradabile, un materiale non invasivo. Nonna Peppina vive nel bosco, nonna Peppina ricerca la natura, il contatto con la natura. Quindi nonna Peppina è ecologica, è sostenibile. Nonna Peppina da questo punto di vista poi ha un secondo valore. Nonna Peppina è impavida, non si muoverà nemmeno se le mettono le manette. Nonna Peppina sfida la giustizia, sfida la forza pubblica. Nonna Peppina è forte, nonna Peppina è un eroe. Quindi il nonna peppinismo comunque è basato su due valori fondamentali: il rispetto dell'ambiente e il rispetto della giustizia. Ne avete altri? Quali sono i valori del nonna peppinismo? 800 24 00 24. Ti dico, abbia pietà di una povera vecchietta di 95 anni. Voglio restare qui, sono stata 75 anni, ma il 7 ottobre fa 75 anni e voglio morire qui, voglio morire. 800 24 00 24, è una vecchietta terremotata, quindi nonna Peppina dalla parte degli anziani. Il nostro è un paese che non ha rispetto per vecchi, non è un paese per vecchi. Nonna Peppina è la riscossa di tutti quegli anziani che giacciono nei centri commerciali alla ricerca di un po' di aria condizionata, alla ricerca di un po' di tepore quando c'è il rigore dell'inverno, alla ricerca di una contaminazione con la merce che loro non si possono permettere, si accontentano di guardare, di toccare come piccole fiammiferaie. Nonna Peppina è il simbolo di tutti loro. Massimo, buongiorno. Ciao, buongiorno Gianluca. Lei è un nonna peppinista? Sì o no? La nostra è ancora più ridicola ancora la faccenda. No, cominciamo, perché mi interessa. Innanzitutto noi partiamo con una richiesta scientifica di avere un'opinione. Lei fa parte, diciamo, del popolo dei nonna peppinisti o no? Certo, sì. È un nonna peppinista. Sì. Oh, perfetto. In cosa vi riconoscete voi? In cosa nonna Peppina è il vostro faro? È il nostro faro. Era una cosa quasi, si pensava quasi naturale di poter far ripartire un qualche cosa, ricominciare con queste casette. No, non si vuole, perché deturpano il paesaggio. Ma siamo matti? Questa è l'Italia, no? Quindi diciamo il motivo, il movente della nascita, come per Masaniello è stata una rivolta di piazza, così, il movente della riscossa in nonna peppinisti nasce dal diritto di poter costruire la casetta di legno. Ma più che diritto è stare nel territorio, perché questi personaggi qua non si rendono conto che cosa sono quelle zone. Per le persone che hanno vissuto tutta una vita. È il suo modo operandi, è un suo modo di vita. Ma allora mi scusi, se lei volesse aggiungere alla carta dei valori, è l'attaccamento al altro che lo ius soli, il diritto, certo, di vivere nel suolo in cui si è nati. Ecco, nonna Peppina da 95 anni sta in quel posto e ha diritto di starci ancora. Appunto. Quindi attaccamento al territorio, che è una cosa che non lo dice nessuno. Non ma lo dice più nessuno. Che attaccamento al territorio, Gianluca, mi sembra una cosa naturale, perché noi che abbiamo perso tutto lì, cioè per ritornare in quella zona con i tempi biblici che c'hanno questi signori politici, non ci si torna mai, non ci torna mai, e questo è il discorso. Non ci si torna mai. Ma tanto vale costruirsi le case, cominciare intanto a continuare a rimanere lì. Ma noi a nostre spese avevamo chiesto di mettere queste mobile home provvisorie, però attenzione, non è per tutti così, c'è una scissione di queste cose qui, c'è chi può e chi non può, c'è qualcuno che può, perché alcuni... Quella di nonna Peppina è costata 80.000 euro, visto, la casa grande. Sì, ma anche meno, che sono nel comune, se l'è messa la casetta lì a Brisciano, due bene, e non gli ha detto nulla a nessuno, nessuno gliela fa togliere. E quindi nonna Peppina ha il diritto, o tutti... Allora scusi, comune. Massimo, devo andare veloce perché ci sono molte telefonate, o tutti o nessuno, il motto potrebbe essere il motto del nonna peppinismo, o tutti o nessuno. Massimo, da Roma. Sì, allora nonna Peppina per tutta la vita. Nonna perché... peppinista, nonna Peppina. Le sta bene il motto o tutti o nessuno? Ma tutti o nessuno, tutti, però fatto come l'ha fatto nonna Peppina, perché esteticamente certo, non dà fastidio all'occhio, è di legno, è una cosa fatto la ecologica. Ecologica di Biancaneve e Sette Nani, ma poi al di là dell'età che ci ha, cioè noi ce l'andiamo a prendere con nonna Peppina quando noi vediamo, certo, gli scempi sulle vie consolari, baracche fatte di bandoni con l'Ethernet, con le batterie delle macchine, con i peggio scempi noi vediamo. Volete mettere la casetta di nonna Peppina con quelle zingaropoli che si vedono alle periferie di città? Bravo. Nonna peppinismo per tutti. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Nonna peppinista anche lei? Assolutamente sì, cioè, ma non esiste, perché per me i veri abusivi sono i parlamentari che stanno, certo, lì a Roma, loro sono i veri abusivi. Questa povera donna, a parte che è sparo, o viene fuori da un terremoto. Cioè, ma ci rendiamo conto. Roberto, facciamo uno sforzo, allarghiamo, perché nonna Peppina si è immolata per tutti, vivendo adesso nel container, al freddo, la prossima settimana tolgono l'ora legale, fa buio prima, sarà tristissima la sua vita. Però vediamo di allargarla a un problema nazionale. Il nonna peppinismo ha un senso, si diventa un valore poi spalmabile in tutte le problematiche del paese. Dove vedrebbe lei una sorta di nonna, di applicare il principio di nonna Peppina a un problema del paese? Dica un altro problema in cui nonna Peppina potrebbe risolverlo, secondo lei. Al di là dei terremotati, chiaro, lì è l'elemento scatenante. Allora, guardi, io vivo in questo momento in una casa che è definita interrata ad uso magazzino. Non riesco ad avere l'abitabilità, benché abbia la residenza, mi sono portato acqua e fogne io. Cioè lei ha fatto la casa in un seminterrato e vorrebbe che fosse definita casa a tutti gli effetti, quindi è chiaro. No, è chiarissimo, guardi, nonna Peppina diventa la patrona degli abusi edilizi. Tutti quelli che vogliono in qualche maniera giustamente avere una sanatoria si dovrebbero rifare comunque al principio nonna Peppina. Nonna Peppina lo vuole. Filippo. Sì, Nicoletti, io telefono da Rievi. Nonna Peppinista innanzitutto, o no? Sì, nonna Peppina. In pieno. Innanzitutto gli mando un calorosissimo, certo, bacio da chi potrebbe sempre, tutti, baci, abbracci e forti abbracci a nonna Peppina. Piano sì, però, perché esatto, si rovina, ecco, anche perché ha una certa età. Non mi spiego come mai il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il Santo Padre non intervengano su questa questione. Oh, diciamolo. Perché soltanto Salvini e Sgarbi devono stendersi davanti a casa di nonna Peppina? Dovrebbe stendersi il Presidente della Repubblica, il Papa e il Presidente del Consiglio. Avrebbe un senso. Esatto. Esattamente, molto chiaro. Filippo esatto. Ha parlato. No, perfetto. Devo dare la linea? No, ancora vado avanti. Allora, andiamo avanti. Abbiamo al telefono una testimonianza, perché noi dobbiamo essere trasparenti anche nell'affermazione del nonna peppinismo. Non deve nascere il nonna peppinismo come se fosse i tanti movimenti politici che nascono sull'ambiguità, che poi gli altarini si scoprono quando ormai è troppo tardi. Dobbiamo avere totale trasparenza, totale visibilità su quello che è il fenomeno del nonna peppinismo. Quindi chiamiamo Ofelia Di Antonio. Buongiorno. Buongiorno, salve. Ofelia Di Antonio è una giornalista, scrive su Informazione TV e Radio Fermo 1, quindi è un organismo di stampa locale, di informazione locale, proprio nella zona, nell'area in cui si produce e nasce, c'è la scaturigine prima del fenomeno di nonna Peppina. Ha scritto la collega un pezzo che in qualche maniera, non voglio dire, dà degli elementi di chiarimento in più su nonna Peppina. Il titolo è La storia di nonna Peppina, quella parte di verità che non fa notizia. Siccome noi vogliamo essere trasparenti, diciamo la parte di verità che non fa notizia della storia di nonna Peppina. Secondo lei, allora, qual è la parte che non fa notizia? Secondo me è tutta la... Secondo me poi, facendo questo lavoro, come sai, non possiamo andare tanto a opinioni personali quando sì, però, cerchiamo giusto, i fatti, no? Stai sul territorio, nessuno meglio di sì, te che sì, abita lì. Esatto. Poi i politici passano, casa. Prendono il caffè, fanno una dichiarazione e poi se ne vanno. Ecco, sì, vediamo di capire bene. Come politica, ecco. Ma infatti è stata una passerella politica abbastanza. Quanta gente avete visto passare? Quanta gente è andata da nonna Peppina? Sono passati più per Macerata, sinceramente. Sì. Da Fermo per fortuna stavolta ci hanno evitato. Era più veloce la Macerata da Roma, sì, per venire, esatto, da nonna Peppina, sì, esatto, perché... Fiastro comunque in provincia di Macerata. Cosa posso dire? Cioè, cos'è che non fa notizia? Il fatto la che... negoziazione, c'è stata una negoziazione sulla casetta di nonna Peppina, sì. No? E chi sì, ha negoziato? Stata, chi ha negoziato? No, ha negoziato in primo luogo il sindaco di Fiastra, che si è schierato con al 100% Peppina. Con nonna, ma assolutamente è nonna peppinista, è... giustamente, se non lui. Assolutamente chi? Sì, ha proposto è stato lui a garantire lo spostamento della data di sfratto, ecco, quindi per poter fare ricorso al TAR, un ricorso che poi ho visto è stato presentato dall'avvocato Borghetti, ma solo per non abbattere la casetta, non per impedire lo sfratto. Quindi la situazione è questa: nonna Peppina, sì, gli si è terremotata la casa come tanta altra gente. Dimmi se ricostruisco giustamente, posso essere appositivo. La famiglia, i figli, nonna Peppina, gli hanno ricostruito una casetta di legno bella nel giardino davanti casa, in una zona vicina a casa? Esatto. Sì, no, è il giardino antistante alla casa terremotata. Gli hanno rifatto una bella casetta, che è una bella casetta. È una bella casetta. E questo è il punto, la casetta è troppo bella, cioè la casetta è grande, tipo il doppio della volumetria della casa originale. È il doppio della casa originale. Esatto, le casette di legno non potevano essere fatte più grandi della volumetria originale. Quindi ha fatto una casona di legno. Sì, e poi... Ma se dice che costa, mi sembra tanto, ma 80.000 euro mi sembrano tanti, può essere costata 80.000 euro sono tanti, anche a livello di mercato la Regione ha detto che il rimborso ci sarà della casa di legno anche se abbattuta, cioè la casa di legno andrà abbattuta perché abusiva, ma sarà rimborsata la famiglia, solo che non ho capito, io personalmente almeno, se... saranno restituiti tutti questi 80.000 euro o solo il prezzo di mercato. Quindi per nonna Peppina hanno fatto un investimento di famiglia notevole per una signora anziana, 80.000 euro, da quelle parti ci compri una casa nuova praticamente. A Fiastra sicuro, poi mettici che il vincolo paesaggistico, prima sentivo una persona al telefono dire queste case sono belle, sono bellissime, ma Fiastra è un parco naturale, quindi i vincoli paesaggistici ci sono diversi. Da un posto qualunque. Senti una cosa, sentiamo fra un istante che devo lasciare un attimo la linea. Mi dici una cosa, in questa negoziazione, sbaglio, ho letto nel tuo pezzo, ma qualcuno ha detto nonna Peppina comunque finché vive potrà stare in questa casa, però dopo la battete. Sì, gliel'ha detto la regione, gliel'ha proposto, è stata una nella figura di prima della commissaria straordinaria De Paoli e poi nell'assessore Sciapichetti, gli hanno detto facciamo una proposta ad personam, fate stare la signora finché non muore naturalmente. Più tardi possibile, chiaro. Certo, ci mancherebbe. Fra 100 anni. Però fra 100 anni i figli la devono buttare giù la casa perché è abusiva. Esatto. E allora qual è il problema? Scusa, nonna Peppina invece che stare nel container con i lupi, il freddo e la tormenta, può stare nella sua bella casa, nella sua villa. Ferma un attimo, ci fermiamo un istante. Mentre gli italiani riflettono, non che vogliamo adombrare il nonna peppinismo, figuriamoci, però vogliamo partire con trasparenza. Se deve partire un movimento d'opinione pulito, bisogna dirla tutta la questione. Nonna Peppina è un'eroina, sta nel container, sfida i lupi, è l'eroe della burocrazia. Però gli hanno fatto una casetta grande, bella, lussuosa. Lei può starci tutta la vita, dopo logicamente deve essere abbattuta, quindi non è un problema di nonna Peppina, è più un problema della famiglia. 800240024, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Proprio all'estremo delle forze ed è tutto, sono stanca di questa situazione, non voglio essere lasciata in pace, io sono stanca, io prego tanto, prego per chi mi vuole bene e anche per chi mi vuole male, aggiustatemi la casa, che io me ne vado subito da qui, vado a casa mia dove ho tutte le comodità, Laura, il bagno e tutto. 800240024, consapevoli dell'alta responsabilità che ci siamo presi questa mattina, stiamo cercando di dare corpo al nonna peppinismo. Lo facciamo in maniera trasparente, dando spazio a tutte le voci, perché non ci sia un non detto sulla fulgida figura di nonna Peppina. Leggo qualche sms che dà il segno del fraintendimento che c'è stato nel mio pubblico rispetto allo scopo di questa mattina. Nicoletti, sei appecoronato al sistema. La medicina ufficiale non ti cura, è solo un gigantesco affare per spillare soldi e questo, per questo la gente crede a nonna Peppina. Non è retorica, dice un altro personaggio. Caro Nicoletti, sono le qualità di nonna Peppina sulle quali è fondata la capacità di rinascita dell'Italia dopo la guerra, tutto raccontabile da testimoni. Altro sms. Attenzione, nonna Peppina presenta evidenti analogie con la figura di Eric Brockovich, istigatrice di folle per autonomasia, che naturalmente questo è un personaggio fantastico. L'Italia è piena di case abusive, buttiamo fuori questa signora anziana? E alla fine sei un infame di merda. Noi stiamo parlando con la collega Ofelia Di Antonio, giornalista di Informazione.tv e Radio Fermo 1, ma sentiamo intanto qualche altra telefonata, poi vediamo di definire la questione che è stata avanzata alla collega. La collega dice, ma è sotto gli occhi di tutti, poi naturalmente non fa parte della lettura ufficiale, è come fosse un Vangelo apocrifo rispetto alla sacra narrazione di nonna Peppina, che in realtà la famiglia nonna Peppina poteva far stare nonna Peppina vita natural durante nella sua casetta bella, grande, il doppio grande della casa originaria, però poteva starci finché viveva, solo che dopo, essendo abusiva, essendo oltre misura, doveva buttarla giù. La famiglia dice no, anche quando muore nonna Peppina la casa deve rimanere, ma è giusto questo, deve rimanere un luogo fisico, un sacrario, un luogo simbolico in cui sia rappresentata perennemente la memoria di nonna Peppina. Sono anche d'accordo. Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno. Io giusto appunto farei un museo con nonna Peppina imbalsamata più tardi possibile. Più tardi, 100 anni. Lì dentro. Così la casa rimane in piedi. I nipoti che così gentilmente hanno offerto la casa a nonna Peppina l'hanno messa in mezzo a sta storia. Lei, 95 anni. Però è un bel gesto, scusi. Quanti nipoti fanno una casa a una nonna? Sicuramente per la nonna di 95 si anni. Si fa tutto e altro, giusto. Ma io sicuramente se fossi nonna Peppina in forza staccherei un pezzo di quella casa di legno e la darei in testa a chi dico io? Però scusi, secondo lei Claudio di quelle parti, sento dall'accento. Lei come se lo spiega questo fatto? Che in realtà che difendere nonna Peppina a vita in quanto nonna Peppina. Certo, beh, questo ormai sull'identità dell'icona forte dell'Italia in questo momento non abbiamo dubbi. Però mi faccia capire una cosa, dal suo punto di vista, come mai secondo lei tutta l'Italia si sta stracciando le vesti, non mandate nonna Peppina in mezzo alla strada, non levate la casa, quando in realtà potrebbe stare tranquillamente finché vive in quella casa? Ma nonna Peppina è usata, per fini secondari da tutti. Io per quello, se fossi nonna Peppina, più di un pezzo di quella casa, un bastone di legno, li darei in testa a chi va lì a intervistarla, a chi va lì a dirgli non andare via, a chi va lì a dirgli vai via. Cioè, io se fossi nonna Peppina sarei l'eroe nazionale di una nuova Italia che si immola con la casa. Sì, dovrebbe dar fuoco alla casa con dentro lei, fare una sorta di rogo sacrificale. No, nel senso che chi si avvicina a una bastonata, l'Enrico Toti del 2000. Nonna Peppina lancia il suo bastone oltre la trincea contro il nemico, una bella immagine, l'aggiungiamo a tutti i simboli che abbiamo già messo insieme. Massimiliano. Sì, pronto, buongiorno. Lei è nonna peppinista innanzitutto? Certo, assolutamente. Ma non si può non esserlo, onestamente. Con questo io vedo che questo Stato italiano genitore con questa signora anziana non garantisce, dopo un evento catastrofico come il terremoto, di cui noi italiani nessuno ne è esente, sì. Non garantisce la casa. No, gliela danno la casa, se vuole ci può stare finché vive, ha sentito? Finché vive può stare. Ha 95 anni. La legge è legge, nonna se ne deve andare. Come le scie chimiche. Kelly Di Antonio, scusi, ricordo la collega. No, così ce lo dice, ma io ho capito male io. Redattrice di Informazione TV e Radio Fermuno. Se volesse nonna Peppina, secondo la negoziazione che c'è stata fra lo Stato e la famiglia, potrebbe stare in quella casa? Sì, era un decreto ad personam, le avrebbero fatto. Vuol dire personale solo per lei. Perché la casa non si salva con il decreto salva casette, perché la volumetria, perché ricordiamo il salva casette. Quanti metri quadri è? Lo sai te quanti metri quadri è la casa? No. Però, purtroppo non l'ho trovato. Però è il doppio della casa d'origine. Vabbè, il doppio almeno della casa d'origine, gli hanno detto. Però scusa Michele, già muori. Che la facevano è giusto che l'hanno fatta comoda, almeno una casetta comoda l'hanno fatta, no? Quello io non lo vabbè, so, non però. Entriamo in merito. Però volendo cioè, sarebbe stato fatto un decreto ad persona per cui nonna Peppina, felicemente, al calduccio, con tutti i suoi ricordi, poteva stare in questa casetta finché viveva. Sì, solo che un mese fa, non so perché, leggo un'intervista al Genero, il Genero ha detto l'impegno della regione c'è, ma quelle prospettive sono solo ipotesi, non soluzioni. Ora, qual è la soluzione? Finché la nonna vive, la soluzione penso principale sia quella di farla star bene a lei, certo, caldo, no? Esatto, io ora so solo che quella povera signora che veramente a me fa pena davvero. Adesso sta dentro il container, un container, esatto, con bagno chimico esterno, cioè a 95 anni. Ora, se la priorità della famiglia, il mio dubbio è questo, fosse stato quello di tutelare la signora, accettate qualunque compromesso, no? O no? Però sì, loro magari dicono abbiamo speso 80.000 euro, poi chi ce li ridà? Quando non vogliamo perderli, esatto. Gliel'avrebbero ridati, perché per legge se ti abbattono la casa abusiva per le terremoto te li ridanno, esatto. E forse non si fidano, penso che nonna Peppina viva tantissimi anni come ci auguriamo noi. Vai, fra 70 anni dice chi si ricorderà più, chi ce li ridà i soldi? O magari fra 70 anni sono anziani anche loro, dice magari ci dobbiamo star noi che siamo vecchi noi, metti caso. Ferma un attimo, Giorgio. Sì, buongiorno. A me faceva onestamente abbastanza schifo e ribrezzo l'idea di questa povera signora di 95 anni. Ma certo, che ha fatto anche la guerra eccetera, fosse stata sbattuta fuori. Ho cambiato diciamo leggermente l'opinione dopo l'intervento della sua collega giornalista, che ha detto delle cose che onestamente io non sapevo. Rimane comunque il fatto che questa persona, sì, però mi permette Giorgio un attimo, questo non offusca diciamo la figura simbolo di nonna Peppina, lei che c'entra? Assolutamente, però è giusto dirla tutta, sennò sembra che non ci possiamo. No, è giustissimo, infatti io sono rimasto diciamo anche piacevolmente colpito dal fatto che comunque le cose sono state dette molto alla luce del sole, in questo modo, in modo che comunque anche io diciamo ho avuto la sensazione che quindi lo Stato in un certo modo si è mosso nei confronti di questa persona, che mentre prima mi sembrava uno schifo, no? Però si renda conto quale amministratore rischierebbe la propria faccia, la propria credibilità, il proprio collegio elettorale di fronte a una figura ormai così nota e visibile come nonna Peppina. Infatti, quindi il fatto che abbiano trovato una cosa ad personam è una cosa, secondo me, comunque positiva nel suo insieme, che giudico favorevolmente. Io ritengo che la cosa dovrebbe essere molto semplice. Questa persona dovrebbe andare appunto nella sua casa, viverci nella serena, casa, tranquilla, nella casetta di legno finché vive, e in questi anni le persone avranno la possibilità e il modo, eventualmente con condoni o con cose eccetera, insomma ci saranno delle leggi pro persone che hanno avuto questi, poi vediamo che succede, vediamo che succede, a mettere a posto la casa, insomma, in qualche modo. A parte, mi scusi Giorgio, adesso non voglio sembrare che gioco col paradosso, ma se in quella casa una Peppina va a vivere, ma diventa un set, uno va, porta in televisione, ti faccio un format, nonna Peppina a casa sua, nonna Peppina che cucina, nonna Peppina che cuce, oggi si fanno di tutto, nonna Peppina che racconta, ci si fa un reality show, altro che la casa del Grande Fratello, la casa di nonna Peppina H24 con le telecamere, è il vero format televisivo che può unire e cementificare l'Italia, quello che non ha fatto Pippo Baudo, che non ha fatto Frizzi, che nemmeno Fazio riesce a fare, lo farebbe nonna Peppina. Fermiamoci un attimo, tra poco. Melog. Peppina ha 95 anni ed ha perso la casa nel terremoto del 30 ottobre 2016. Il suo unico desiderio è morire guardando i suoi monti. La casetta costruita dalle figlie purtroppo è stata sequestrata a causa di mancanze di permessi. Le figlie hanno definito lo sgombero della madre un'operazione infame e ignobile. Il grande caldo dell'estate appena trascorsa e l'arrivo imminente dell'inverno ci hanno indotto a realizzare una piccola struttura in legno in un'area edificabile di nostra proprietà, per la quale mia sorella ha cercato di mettere in atto rispetto di tutte le procedure. Questo fa parte, diciamo, delle agiografie su nonna Peppina che stanno fiorendo ovunque, ma giustamente abbiamo capito che nonna Peppina comunque rimane integerrima nella sua figura di rappresentativa vindice di quello che è un desiderio di riscossa del paese. È un po', diciamo, da discutere il fatto che in realtà se volesse stare nella casetta, se le nipoti, i figli avessero accettato questa sorta di provvedimento ad persona, lei sarebbe lì al calduccio, tranquilla, continuerebbe a parlare con Barbara D'Urso, ma non starebbe nel container, schiava comunque delle intemperie. Gabriele, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Velocemente, allora, io... peppinista innanzitutto. Lei è nonna peppinista? Peppinista sicuramente, per quanto riguarda il discorso che non si può fare un'azione così importante verso la persona che ha 95 anni. Eh sì, però scusate, la casa gliela assicurano, mi sembra aver capito. La casa gliela assicurano, infatti non... Non assicurano perché... agli eredi, questo sicuro, agli eredi no, ma lei sì. Allora perché tutto questo... ce lo stiamo domandando questa mattina, proprio per la trasparenza del nonna peppinismo questa mattina. Lei però, già capisco, fa parte di una sottocorrente. Prima ancora che nasca il movimento, la sottocorrente dei dubbiosi, che dico sì, nonna Peppina sì, ma però spiegateci perché lei nella casa ci può stare, perché tutta l'Italia piange e lei sta dentro la baracca. Assolutamente sì. Perfetto. Assolutamente Nadia, Nadia, buongiorno. Nadia. Sì, buongiorno. Nonna buongiorno. Peppinista? Sì, sì, assolutamente sì. Comunque secondo me lo sbaglio di tutte queste cose, cioè quello che sta succedendo, sono dei figli, perché i figli sapevano che non potevano fare quella volumetria e l'hanno fatta, e adesso c'è questa vecchietta, diciamo, che noi sappiamo che le persone anziane basta una piccola cosa, certo, gli viene l'ansia eccetera, no? E beh, magari è stato un eccesso di amore, volevano farla star proprio bene, ha detto facciamo una casona, non una casetta, così donna Peppina. Ma non lo... questo non lo so. Non lo so, immagino. Assolutamente. Però non lo so, non vorrei che ci abbiano un po' marciato sopra. No, ma non cosa. Diciamo, cioè, molti stanno mannando, ci stanno marciando, sperano che poi quando muore se la tengono. No, non è così. E diciamo, in un impeto d'amore, di passione, hanno detto facciamoli una bella casa. Anche se era abusiva, tanto che ci fa, in questo caso chi guarda, tutto il paese è abusivo. Adesso nonna Peppina, poverina, potrebbe star dentro, la continuano a tenere come icona della rivolta, ma anche lei ormai ha un mandato, lei deve rappresentare comunque il sacrificio di colei che si oppone alla burocrazia. Giorgio? Ma sì. Nonna Peppinista, sì. Ma ho già parlato prima, sai. Ha già parlato? Allora, si è parlato, ci ascolti. Emanuele. Eccomi. Emanuele, andiamo avanti. Nonna Peppinista? Sì, per nonna Peppina, guarda, io la difendo proprio benissimo, invece i figli, i nipoti hanno fatto benissimo, come la signora che ha detto che non gli hanno fatto casa, quello che l'altro, perché giustamente è una signora che sta vivendo due generazioni, primo sta vivendo due generazioni, che ha visto due guerre, due guerre, sempre le tasse, certo. Terzo gli è crollato casa e lo Stato gli dovrebbe rifare casa e lei non sta sotto lo Stato che vuole andare dentro un albergo oppure casa popolare. Quarto, qui se vieni a Roma, io sto a Roma, se vieni a Roma, via la signora, a chi sta a difendere? Lo Stato c'ha gli occhi chiusi perché a Roma, a via di Tor Vergata, vicino Decathlon, che c'è il Carrefour, sì. Ci sono zingari che si sono fatti scialè per strada e loro se devono vergognare perché hanno invitato anche i giornalisti, l'hanno invitato in televisione nonna Peppina, però se devono venire a Roma e vengono a vedere... Oh, lo dica, ma allora diciamolo forte, viva nonna Peppina che... Per strada si sono fatti, certo. Il comune di Roma, chiaro. Gli porta anche i bagni... Vabbè, chiaro, ho capito, l'ha detto, abbiamo capito, chiaro che la concitazione nasce dal fatto che nonna Peppina tutte queste cose le fa venire alla luce. Emanuele ha parlato? Manuela ha parlato, Vittorio. Pronto? Sì, Vittorio, l'ascolto. Ah, buongiorno, senti, ho chiamato per questo motivo. Io, è impressionante come le autorità si oppongono a questa casa in legno che si integra meglio nell'ambiente in cui è stata costruita. Beh, sarà un piano regolatore, deciderà chi fa il piano regolatore, chi ha detto ai beni paesaggistici, non posso dire a distanza se è meglio questo o l'altro. Il vincolo mi pare che sia sulle dimensioni della casa. La casa sembra un po' grande rispetto a quelle che possono sanare. Ma ripeto, e adesso sentiremo la collega in conclusione, c'era in atto una trattativa per cui erano disposti a fare un provvedimento ad personam. Nonna Peppina poteva stare nella sua casa di legno, bella, tranquilla e comoda, finché campava. Da 0 a 100 anni nessuno avrebbe impedito. Solo che pare questa trattativa non va in porto perché la posizione della famiglia dire no, anche dopo non va abbattuta. Kelly e Di Antonio, la dimostrazione, vedi, quello che dici stamattina è stato ripreso da qualche giornale, ti risulta? Sì, sì, io la cosa paradossale è che tutto quello che ho trovato non mi è servito intervistare Uscia Pichetti o altri, è già tutto pubblicato, è questo quello che non fa. Erano fonti aperte, diciamo. Repubblica, Corriere Adriatico, Cronache Maceratesi e altre, tutte molte locali marchigiane ma anche nazionali, ne è stato parlato. Se posso rispondere a quel signore di Roma prima che se la prendeva con Stato e Zingari, la cosa più bella in tutta questa storia è che un imprenditore bergamasco che vuole rimanere anonimo si è offerto due giorni fa, tipo il 14, il 15, non mi ricordo, di comprare una casa alla signora Giuseppa. Ha detto io gliela compro a Fiastra, al paese dove lei giustamente vuole morire, e si è messo già in contatto con il sindaco e gli ha detto: può essere che in tutta Fiastra non è rimasta una casa agibile? Mi dite quale, io ve la compro. Ma ti rendi conto l'imprenditore se comincia poi a mettere la faccia nonna Peppina sui prodotti? È un giusto riconoscimento la sua generosità. No, la cosa che mi sorprende, e alla fine ci facciamo anche una risata sopra, che passa più il messaggio strappacuore, la bella favola, la lettura di Barbara D'Urso, nonna Peppina, arrivano i lupi, arriva il freddo, così, rispetto a una prassi che sì, con tutti i limiti, non voglio difendere nulla e nessuno, Dio me ne guardi, da difendere le istituzioni, ma in questo momento nonna Peppina potrebbe starsene al caldo dentro una casa. Questo è il dato di fatto. Non è una poverina buttata, è una poverina perché in questo magari è agita, ma la casa nonna Peppina ce l'ha, non è che non ce l'avrebbe, o sbaglio? Assolutamente. Va bene, grazie Ofelia Di Antonio, dimostriamo che un piccolo organo di informazione locale come informazione.tv e Radio Fermo 1 può dire la sua tranquillamente, non è ascoltato, perché in questo momento tutti vogliamo pensare con il cuore in mano che nonna Peppina rappresenti tutti i nostri mali e la riscossa dalle nostre ingiustizie. Alla prossima.